Ovviamente Don Milani scrive delle cose in maniera molto chiara sulla scuola che perde un sacco di studenti, e questi studenti li perde perché li scoraggia, perché non ci sono degli strumenti in cui gli studenti possono essere recuperati. Oggi le condizioni sono ovviamente molto diverse, ma quei meccanismi sono gli stessi, cioè la scuola italiana non soltanto non contrasta le disuguaglianze, ma le alimenta e in alcuni casi le crea. Lo fa attraverso il fatto che non ci sono corsi di recupero sufficienti per chi va male, e quindi le persone che vanno male si devono andare a fare ripetizioni, a spendere 1.600 euro di media a famiglia, il 50% dei ragazzi alle superiori fa ripetizioni, il 17% alle medie. E dall'altra parte, facendo sì che se per caso a un certo punto un ragazzo comincia a essere bocciato, perde un anno, eccetera, eccetera, poi lascia la scuola e non ha più la possibilità di, come dire, avere un successo formativo, personale, professionale. Questo vale sempre di più per le scuole che sono le superiori e i licei, alle superiori licei, quindi per i tecnici professionali. Andare a un tecnico professionale, a un tecnico, a un professionale, oggi vuol dire avere a 30 anni un reddito medio del 40% minore di chi è andato al liceo, e ovviamente la percentuale di persone che va all'università, che viene dal tecnico, da un professionale, è sempre minore, e quindi diciamo che questo classismo viene riprodotto in tutte le sue forme. Don Milani purtroppo è stato, come dire, un buon profeta, ma di una cattiva scuola. Quello che ha tentato di fare in classe, e quello che poi appunto si è istituzionalizzato, le tesi dell'educazione linguistica e democratica, purtroppo è stato poco ascoltato. Venendo appunto ai giorni nostri, insomma, è già descrivevi alcuni problemi. Dobbiamo leggere l'alternanza scuola-lavoro come un messaggio sul futuro da precari che avranno i nostri ragazzi? Ma l'alternanza scuola-lavoro, come dire, in sé può voler dire tante cose. Come è stata applicata, come viene applicata in Italia, ha dei casi ovviamente che sono dei casi luminosi di buona scuola, ma che sono rari, perché di fatto la scuola usa l'alternanza scuola-lavoro come un filtro per capire come allocare le risorse degli ultimi anni nella poca richiesta di lavoro che c'è nel mondo del lavoro italiano. La scuola funziona fondamentalmente come una gestione delle risorse umane. Questo per me non è la funzione della scuola. Oggi vivremo probabilmente, la vita si sta allungando, si può studiare a lungo, si può studiare all'università, si possono studiare materie che non riguardano immediatamente appunto una funzione del lavoro. I più grandi finanzieri, i più grandi economisti sono spesso laureati in materie come filosofia o storia dell'arte, che non sono immediatamente, come dire, non hanno immediatamente a che fare con una funzione.